Bibbia Martini, primo libro dei Re 12 divisione del regno per essersi Roboamo attenuto al consiglio dei giovani. Geroboam è fatto re di 10 tribù. Il Signore dissipa per mezzo del profeta Semeia l'esercito preparato da Roboamo contro Geroboam. Questi innalza Dan, e abbete i vitelli d'oro, perché siano adorati stabilisce solennità, altare, e sacerdoti. E Roboamo si portò a Sichem, perocché ivi si era raunato tutto Israele per dichiararlo re. Ma Geroboam figliuolo di Nabat essendo tuttora in Egitto, dove era fuggito per paura del re Salomone, avendo inteso, come gli era morto, se ne tornò dall'Egitto, perocché avevano mandato a richiamarlo. Andò adunque Geroboam, e tutta la moltitudine di Israele a parlare a Roboamo, e gli dissero, «Il padre tuo ci ha messo addosso un giogo asprissimo, ora tu mitiga alcun poco la durezza del governo del padre tuo, e il giogo asprissimo, che ci ha messo addosso, e noi saremo tuoi servi». Ed egli disse loro, «Andate, e tornate da me di qui a 3 giorni», e ritiratosi il popolo, il re Roboamo tenne consiglio coi signori, i quali stavano attorno a Salomone suo padre, mentre era vivo, e disse, «Che mi consigliate voi di rispondere a questo popolo?» E quelli dissero a lui, «Se tu oggi farai a modo di questo popolo, e ti adatterai, e ti piegherai alle loro domande, e farai loro buone parole, ei saranno per sempre tuoi servi». Ma egli abbandonò il consiglio datogli dai vecchi e consultò i giovani, che erano stati allevati con lui, e gli stavano intorno, e disse loro, «Che mi consigliate voi di rispondere a questo popolo, il quale mi ha detto, aleggia il giogo messo addosso a noi dal padre tuo?» E che giovani, che erano stati allevati con lui, gli dissero, «A questa gente, la quale ti ha detto, il padre tuo ha posto un giogo pesante sopra di noi, alleggialo tu, risponderai in tal guisa, è più grosso il mio dito mignolo, che il dorso del padre mio. Ora il padre mio vi ha messo addosso un giogo pesante, e io aggraverò il vostro giogo, il padre mio vi ha battuti con le verghe, e io vi strazierò con gli scorpioni». Andò adunque Geroboam con tutto il popolo a trovare Roboamo il terzo giorno, conforme aveva ordinato il re, quando disse, «Tornate da me fra 3 giorni». E il re diede aspra risposta al popolo, abbandonando il consiglio dato a lui dai signori, perocché egli parlò loro secondo il consiglio dei giovani, dicendo, «Il padre mio vi ha imposto un giogo pesante, ma io aggraverò il vostro giogo. Il padre mio vi batté con le verghe, e io vi strazierò con gli scorpioni». E il re non si piegò ai voti del popolo, perché il Signore gli aveva voltate le spalle, per adempiere la parola detta da lui per mezzo di Aia Silonita, a Geroboam figliuolo di Nabat. Il popolo adunque veggendo, come il re non aveva voluto ascoltarli, prese a dire, «Che abbiamo noi da fare con Davide? Che abbiamo di comune col figliuolo di Isai? Vattene alle tue tende, o Israele, governa ora la tua casa, o Davide». E Israele se andò alle sue tende. Ma di tutti i figliuoli di Israele, che abitavano nelle città di Giuda, fu dichiarato re Roboamo. Indi il re Roboamo mandò Aduram, che era soprintendente dei tributi, e tutto Israele lo lapidò, e restò morto. Allora il re Roboamo salì in fretta sul suo cocchio, e fuggì a Gerusalemme, e Israele rimase diviso dalla casa di Davide, come anche in oggi. E avendo tutto Israele sentito dire, come Geroboam era tornato, raunatisi insieme mandarono a chiamarlo, e lo dichiararono re di tutto Israele, e nessuno tenne il partito della casa di Davide, eccettuata la sola tribù di Giuda. Ma Roboamo arrivato che fu a Gerusalemme raunò tutta la casa di Giuda, e la tribù di Beniamino in numero di 180.000 scelti combattenti, perché facessero guerra alla casa di Israele, e rendessero il regno a Roboamo figliuolo di Salomone. Ma il Signore parlò a Semola uomo di Dio, e disse, «Parla a Roboamo figliuolo di Salomone, re di Giuda, e a tutta la casa di Giuda, e di Beniamin, e a tutto il resto del popolo, e dirai, queste cose dice il Signore, voi non vi muoverete, Ne verrete a battaglia contro i vostri fratelli, figliuoli d'Israele. Torni ciascuno a casa sua. Però che questa è cosa fatta da me. Ascoltaron quelli la parola del Signore, e se ne candarono, come avea comandato loro il Signore. Or Geroboam edificò Sichem sul monte Efraim, e ivi abitò, e lasciata quella edificò Fanuel. Andava però dicendo Geroboam in cuor suo, or ora tornerà il regno alla casa di Davide, se questo popolo va a Gerusalemme, per offrir sacrificio nella casa del Signore, si volterà il cuore di questo popolo verso il suo signore Roboamo re di Giuda, e mi uccideranno, e torneranno a lui. E dopo molti pensieri fece fare due vitelli d'oro, e disse al popolo, non andate più a Gerusalemme, eccoli dei tuoi, o Israele, i quali ti trassero dalla terra d'Egitto. E ne pose uno a Betel, e uno a Dan, e questo fu occasion di peccato, però che il popolo andava sino a Dan ad adorare il vitello. Ed egli fece degli adoratori nei luoghi elevati, ed ex sacerdoti della feccia del popolo, i quali non erano della stirpe di Levi. E stabili un di solenne nell'ottavo mese, ai 15 del mese, a somiglianza della solennità, che si celebrava in Giuda. E salito all'altare, che egli avea fatto in Betel, vu immolò ancor delle vittime ai vitelli fatti da lui, e in Betel stabili sacerdoti dei luoghi eccelsi eretti da lui. E il di 15 dell'ottavo mese, giorno che egli di suo capriccio rendè solenne per figliuoli di Israele, salì all'altare, cui egli aveva eretto in Betel, per abbruciarvi l'incenso. Note 12,1. Roboamo si portò a Sichem. Roboamo era, per quanto credesi, l'unico figliuolo di Salomone nato di madre ammonitide per nome Naama. Fa specie il vedere, come trattandosi di riconoscere questo principe per successore legittimo al trono, il popolo si adunò non a Gerusalemme, ma a Sichem. Egli è perciò probabile che la maggior parte del popolo malcontento del precedente governo, particolarmente per ragione delle eccessive gravezze, ottenesse che questa adunanza fosse tenuta in luogo dove potessero esporre con libertà i loro gravami e domandarne il rimedio. Sichem era nel mezzo della tribù di Efraim, nella quale Geroboam avea un forte partito. 12,3. Però che avea mandato a richiamarlo. Lo avevano richiamato quelli che erano informati delle promesse fatte lì da Ia, e segretamente lo favorivano. 12,10. È più grosso il mio dito mignolo, e ci espressione piena di milanteria, nell'usar la quale questi marci adulateri vollero forse accennare, che Salomone era salito al trono in età ancor tenera, laddove Roboamo avea più di 40 anni. 12,11. Il padre mio vi ha messo addosso un giogo pesante, e ci voci degne più d'un carnefice, che d'un re. 12,16. Che abbiamo noi da fare con Davide? Ici. La famiglia di Davide non ha nulla a che fare con le nostre tribù, o governi il nipote di David la sua tribù di Giuda, e non pensi più a noi, che saprem trovare chi ci governi. 12,18. Mandò ad Uram. Sembra probabile che i fosse mandato a procurare di calmar gli animi del popolo, ma non era più tempo. Il popolo uccide ad Uram, e con questa si impegna quel più nella ribellione. 12,22. Il Signore parlò a Semeia, e ci vedi quello che si racconta di questo profeta. 2. Paral. 12,15. Conviene che egli avesse già credito grande non solo presso il re, ma anche presso tutto il popolo, che obbedì a lui, e posò le armi. 12,26. Edificò Sichem. Vale a dire la ristorò, lo fortifica, e l'abbellì. Edificò Fanuel. Questa forte città era di là dal Giordano. Con questa egli teneva la soggezione tutto quel paese. 12,28. Fece fare due vitelli d'oro. Fino a tale impietà è strascinato questo principe dalla sua ambizione. Per mettere un invincibile ostacolo alla riunione delle 10 tribù con Giuda, Egli introduce tra queste l'idolatria. E perché i suoi sudditi non vadano più a Gerusalemme per adorare il vero Dio. Alla all'adorazione del popolo due vitelli d'oro a similitudine di quello che era già stato fatto da Dagon gli israeliti nel deserto, e a similitudine del Dio Apis adorato sotto tal figura nell'Egitto. Questo strano consiglio non solo gli fece perdere la protezione di Dio, ma alienò da lui oltre l'ordine levitico, un grandissimo numero di israeliti delle altre tribù, i quali tutti si ritirarono nei paesi di Giuda e di Beniamin, e diminuirono la sua possanza, e fortificarono il suo avversario. Vedremo poi dalla serie dell'istoria quanto servisse a lui questa infame politica. 12,29 Uno a Belel, e uno a Dan. Betel era a settentrione di Gerusalemme in distanza di circa 15 miglia. Il luogo era celebre, e frequentato per divozione a causa della visione di Giacobbe. Vedi 1. Regione X, 3. Dan era verso le sorgenti del Giordano, e ivi quelli della tribù di Dan avean collocati i terafim, e avean avuto Mica per sacerdote, Giud. 18:30-12,30, e questo fu occasione di peccato. Da Geroboam ebbe principio in Israele in pubblica idolatria, nella quale perseverò di poi l'infelice popolo fino alla sua cattività e dispersione. 12,31 Ed ex sacerdoti, che non erano della stirpe di Levi. Qualche porzione di Leviti dovette però restare nel regno di Geroboam, i quali seguirono la religione del sovrano idolatra. Vedi Ezek. Xliv, die. 12,32 Stabilì un di solenne nell'ottavo mese, Eci. A imitazione della festa dei tabernacoli, la quale si celebrava dai giudei nel settimo mese. 12,33 Salì all'altare. Per abbruciarci l'incenso. Così egli pretese di riunire nella propria persona le due potestà, la civile e la sacra, il regno e il pontificato.